Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ma se poi al telepresente olograficamente tu stringi la mano, ti si chiudono le dita. Guarda che tu vuoto. Stai parlando con me, ma in realtà io sono un ologramma. Allora adesso provo, a stringerti la mano. Puoi stringermi la mano? Sì, sì, sì. I titoli, cominceremo da lì, i titoli adesso. Benvenuti a Mebius. Interagire con una persona che si trova dall'altra parte del globo come se fosse accanto a noi. È possibile, per la prima volta, grazie alla telepresenza olografica realizzata dall'Istituto Nazionale di Ottica di Firenze. Andiamo in quota con la Fondazione Montagna Sicura. Si occupa di monitoraggio dei ghiacciai, previsione di dissesti, ma anche smaltimento dei rifiuti nei rifugi alpini. Fare gioielli con la stampante 3D. E storia di un gioielliere che con la 3D adesso fa anche ossa artificiali per la chirurgia del piede. Com'è possibile che il nostro cervello, macchina perfetta, possa essere ingannato? In questo luogo possiamo attivare un collegamento con un operatore remoto che può trovarsi in qualunque parte del mondo. Grazie a questa tecnologia, l'operatore ci apparirà con un elevato livello di definizione e noi lo percepiremo come se fosse seduto realmente di fronte a noi dall'altra parte del tavolo. Oibò, cos'è questo? Tu immaginati che io in questo momento sono a casa. Tu però mi vedi in tre dimensioni, mi parli, puoi interagire con me. Potremmo, io ti posso anche dire... andare in onda, tu dici? Assolutamente se sì. Se c'è un microfono a casa. E certo, questa è la nuova tecnologia che per la prima volta è stata messa a punto, anche in termini di costi per la prima volta, nel senso che è stata resa abbastanza economica questa tecnologia. Si chiama telepresenza olografica ed è stata sviluppata dall'Istituto Nazionale di Ottica del CNR di Firenze. E insieme a noi stasera c'è Alessandro Farini. Intanto buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera Farini. Lei lavora all'Istituto Nazionale di Ottica, è responsabile del laboratorio di ergonomia della visione e insomma ci spieghi un po' questa telepresenza olografica come funziona. È vero che io e Federico potremo andare in onda lui da qui, da via Monte Rosa a Milano, e io da dove vado? In Russia, ad esempio. Beh, potrebbe essere ovunque. Ecco Farini, però le chiedo, qualcosa si è visto in questi ultimi anni, 10 anni, però voi state dandogli molta concretezza e questo è il grande cambiamento. Diciamo, quello che è il grande cambiamento è sì, una grande concretezza, una possibilità accessibile a tutti, soprattutto accessibile. Noi abbiamo scelto di puntare su tecnologie che non fossero troppo impegnative, non solo in termini di costi, ma anche in termini di manutenzione, di difficoltà di realizzazione. Normalmente quando si pensa all'olografia, si pensa a una sorgente laser, qualcosa di complesso. Noi invece abbiamo cercato di utilizzare sia sorgenti sia tecnologie più semplici per permettere una grande diffusione di questa tecnologia, perché davvero uno possa essere in Viale Monte Rosa a Milano e l'altro possa trovarsi anche nei posti più sperduti, dove è sufficiente una connessione internet. Ecco, quali sono gli elementi fondamentali, gli ingredienti? Gli ingredienti sono quelli tipici, diciamo, dell'ottica geometrica, quindi noi utilizziamo specchi, superfici rifrangenti, specchi parzialmente riflettenti, monitor, il tutto assemblato insieme per dare quella sensazione 3D che è quella decisiva anche per permettere una buona interazione tra la persona e soggetto, è un'altra persona, ecco, che si trova molto lontana. Però cerchi di farci capire. Allora, io adesso sono qua che sto parlando a un microfono e sono qua in carne ed ossa. Che strumento ho? Ho una specie di proiettore che mi proietterebbe l'immagine di Chiara? Diciamo, quello che lei vede direttamente è la persona proiettata, cioè lei vede un'immagine tridimensionale della persona. Okay. Quello che è necessario è sì un sistema di proiezione che con un insieme di apparecchi di tipica ottica geometrica, cioè specchi appositamente lavorati, superfici rifrangenti appositamente lavorate, realizza un'immagine tridimensionale. Ma allora non è un apparecchio singolo tipo un videoproiettore, ho bisogno di uno studio, di un luogo che è attrezzato per questa proiezione? Diciamo che devo assemblare due o tre cose perché l'effetto olografico, l'effetto tridimensionale sia realmente impeccabile. Cioè non si tratta semplicemente di un piccolo oggetto, ecco, per chi ha in mente l'immagine di Guerre Stellari con il robot che proietta la principessa Leila, diciamo che invece qui i componenti necessari sono due o tre, okay. Soprattutto se poi uno vuole aggiungerci anche la possibilità di scambiare documenti, la possibilità di fare tutte quelle cose che sono indispensabili fare. Dunque, quando ci si trova di fronte a una... Questo è un dettaglio non banale. L'ha detta un po' grossa, nel senso che se l'immagine virtuale di Chiara mi dà un documento e io lo prendo, o la trasmissione è, diciamo, di tipo digitale, oppure vuol dire che mi esce della carta, non è... Infatti, così. Infatti noi diciamo, perché l'idea è quella di affiancare all'immagine tridimensionale anche tutta un'altra serie di servizi, questo è quello che abbiamo elaborato all'interno del progetto. Il documento mi appare sul monitor. Sul monitor o sulla stampa. Oppure viene stampato direttamente. Oppure viene stampato. Però questo set qua di strumenti, ecco, voi li state progettando il più possibile a costi accessibili, per esempio anche per piccole aziende, no? Che potrebbero utilizzare. Sì, è proprio questa, cioè l'idea è che possa essere accessibile anche per piccole aziende, perché noi abbiamo visto come la possibilità di interagire con una persona tridimensionale in cui ci si scambia lo sguardo è realmente un valore estremamente aggiunto negli scambi interpersonali. Chiunque si è trovato a fare una conferenza tramite un sistema tradizionale avrà visto che gli sguardi vanno un po' da tutte le parti, sì. Che comunque uno si rende conto che quello è uno schermo, si distrae, fa altro. Invece la possibilità di una tecnologia tridimensionale a costo basso, secondo noi, potrebbe essere una chiave di volta per permettere e facilitare tutti questi scambi a distanza. Lei è d'accordo sul fatto, questa è una riflessione di tipo psicologico o sociologico, dal punto di vista della funzionalità è perfetto tutto ed è estremamente efficiente. Se però la relazione con la persona si fa complessa dal punto di vista emotivo, può essere inquietante avere... Guardi, sono completamente d'accordo con lei, ci siamo ampiamente posti questo problema, perché è oltretutto, se uno poi ha figli piccoli che cominciano a vivere la relazione in questo modo, io mi sono risposto in questo modo, che è quello che mi sembra una chiave di volta in tutte le tecnologie. Tutte le volte che una tecnologia fa vedere qualcosa meglio, ti viene più voglia di approfondire. Per esempio, se io vedo il mio amico in maniera tridimensionale, in realtà non è che mi accontento, ma mi viene più voglia di incontrarci poi davvero. Sì, questa mi sembra la strada da percorrere. La tecnologia è sempre una cosa utile, se però crea l'isolamento sarebbe veramente pericoloso, ma se invece mi dà lo spunto per dire: certo, guarda com'è bella la conversazione guardandosi negli occhi, certamente se possiamo anche stringerci la mano forse è un passo avanti. Senta Farini, magari ci dice qualcosa sulla tecnologia, nel senso che è talmente particolare, nel senso che lei ci dice vediamo un'immagine 3D e di solito siamo abituati ad esempio al cinema a vedere le immagini 3D ad esempio con gli occhialini polarizzate con diversi elementi però da indossare, invece in questo caso non c'è l'esigenza di dover mettere l'occhialino e soprattutto diciamo utilizzate questo trucchetto, ma in realtà quello che proiettate è un'immagine bidimensionale in realtà. In un certo senso è così, perché mentre nel cinema l'immagine tridimensionale si genera sempre dal confronto tra i due occhi ed è questo che richiede la necessità di tutti i sistemi che conosciamo, occhiali polarizzati e cose di questo tipo, invece in questo caso con l'osservazione diretta uguale dei due occhi noi l'immagine è effettivamente un'immagine che è bidimensionale e che assume tridimensionalità grazie a tutta una serie di aspetti che sono più cognitivi che semplicemente fisiologici, cioè noi vedendo quell'immagine su uno sfondo in una certa posizione con un certo realismo di posizione della testa e tutti questi altri aspetti che potrebbero essere elencati, il nostro cervello la interpreta come un'immagine tridimensionale, perché dobbiamo ricordarci che la visione tridimensionale non è solo data dal confronto dei due occhi, anche se io chiudo uno dei due occhi non è che immediatamente il mondo mi appare piatto, il mondo continua a essere tridimensionale per tutta una serie di indizi cognitivi che giungono a noi. Ecco, voi ci avete mandato un video in cui appunto si vede benissimo come funziona, quindi invito tutti gli ascoltatori ad andare al nostro blog sito. O al nostro sito, allora trovate tutte le informazioni o su mebiusonline.eu oppure su radio24.it nella nostra pagina legata alla trasmissione. Grazie Farini e buon lavoro. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori di Mebius. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E adesso andiamo in montagna, comincia anche a far caldo, quindi non sì, è male. Andiamo proprio in quota, andiamo ah, in sì? quota, su? Sì sì sì, andiamo su, vedrete che parleremo sia di rifugi alpini, parleremo di ghiacciai, parleremo di monitoraggio ambientale e lo faremo insieme a Fondazione Montagna Sicura. E allora direi di dare la parola intanto alla presidente di Montagna Sicura, Federica Cortese, che è collegata con noi, poi ci sono altri ospiti, li saluteremo in seguito. Che cos'è Fondazione Montagna Sicura? Buonasera a tutti. Buonasera. Fondazione Montagna Sicura è un ente strumentale che è stato creato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta nel 2002 e che è attivo dal 2003. In realtà racchiude tutta una serie di altri enti, tra cui il Comune di Courmayeur, il Soccorso Alpino Valdostano, le Guide Alpine di Alta Montagna della Valle d'Aosta, l'USL della Valle d'Aosta, anche appunto in funzione di tutte quelle che sono le attività proprio di ricerca applicata, medicina di montagna, eccetera, che vengono svolte. Prendete dentro quindi tanti settori diversi di intervento sulla montagna. Esatto, però con la specificità di trattare argomenti che riguardano comunque l'alta montagna o comunque la criosfera. Sì, come dicevamo all'inizio, ambiti diversissimi, cioè dal monitoraggio ambientale alla sicurezza per i vostri operatori, alla sicurezza di chi ad esempio va a sciare. Esattamente, sì, i progetti sono numerosi e appunto lo scopo è proprio quello di dare le informazioni agli utenti della montagna, ma anche a chi deve poi gestire il territorio, perciò le amministrazioni pubbliche, regionali o semplicemente anche i ricercatori. Ecco, i progetti sono tanti, anche di respiro internazionale, perché chiaramente le Alpi confinano con altri paesi, quindi Jean-Pierre Fossone, intanto buonasera. Buonasera a tutti. Lei è segretario invece generale di della Fondazione generale, Montagna sì. Sicura. Ecco, quali sono invece i progetti quindi che state portando avanti sulle nostre Alpi? Fondazione è un ente di ricerca e anche di formazione specializzata. E in questo spirito noi siamo nati con lo scopo di confrontarci con tutte le realtà dell'arco alpino o anche internazionali che si occupano comunque di montagna e delle nostre tematiche. Certo, molto forte la cooperazione con i paesi più vicini nell'asse del Monte Bianco, intorno al Monte Bianco, quindi con la Francia e con la Svizzera, ma abbiamo relazioni a livello universitario e scientifico con diverse università posizionate appunto nei diversi paesi dello spazio alpino. Abbiamo diversi progetti, il 50% delle nostre risorse di finanziamento deriva dalla partecipazione a progetti comunitari sui settori più disparati. Molto alta è la collaborazione sulle tecniche di monitoraggio in materia di nivologia, in materia di ghiacciai, che sono un oggetto di studio molto attento negli ultimi anni. Voi ad esempio mettete delle tag che sono dei sensorini nei ghiacciai che in qualche modo registrano i parametri, lo stato, come dire, del ghiacciaio e rimandano ad un database, ad un operatore in sede alcuni dati, ovviamente, sull'evoluzione. E no? In questo modo, chiaramente, utilizzando le tecnologie si limita la presenza ad esempio di un vostro operatore su un ghiacciaio che appunto non è una zona proprio sicurissima. Certo, la ricerca in montagna sta avendo veramente un grosso boom in questi ultimi anni, nel senso che laddove si investe, penso soprattutto al settore dei rischi naturali, in tecnologie molto performanti di monitoraggio del territorio, si mette comunque in sicurezza sempre di più gli operatori e si possono dare delle risposte eccellenti. Il nostro scopo è comunque la sicurezza e la salvaguardia in primis delle popolazioni, ma anche comunque dei fruitori della montagna. Su questo abbiamo fatto diversi interventi in cui le tecnologie comunque avevano di primo ordine. Ma voi cosa avete? Avete una centrale operativa che riceve, immagino, tanti sensori, non sono 20, sono centinaia. Tanti sistemi, abbiamo diversi progetti, abbiamo diverse applicazioni, ogni progetto è in sé una sua realtà. Una dimensione molto importante è data ad esempio dai sistemi di monitoraggio fotografico. Intanto si parte da un'attenta osservazione dei fenomeni che interessano al nostro territorio e su questo si hanno già tutto un insieme di elementi che i tecnici possono elaborare dalla nostra sede e dare ai comuni e agli enti cui competono esattamente le attività di protezione civile e di sicurezza. Cosa significa? Che ci sono delle webcam ad esempio o delle fotocamere piazzate? Abbiamo un progetto con il CNR dove abbiamo installato dei sistemi, adesso banalizzo, ma fotografici, che ci danno costantemente delle immagini di un ghiacciaio che stiamo seguendo e con questo noi abbiamo comunque indicazioni molto precise e molto puntuali sulle evoluzioni di questo ghiacciaio. Adesso invece andiamo su un progetto concreto, un bel progetto che abbiamo conosciuto, ne parliamo con Mattia Piccardi. Buonasera e benvenuto anche a lei. Grazie, buonasera. Benvenuto. Lei è un ricercatore di Montagna Sicura, uno di quelli che vanno a fare i rilievi, no? Sì, nello specifico noi conducendo attività soprattutto con i rifugi, abbiamo un contatto diretto con i rifugisti, quindi con i gestori di rifugio ad alta quota e di media quota. Ecco, allora, quindi molto spesso ci rechiamo in loco per verificare effettivamente la funzionalità dei vari sistemi che monitoriamo. E di questo vogliamo parlare, perché i rifugi sono dei luoghi piuttosto delicati, dei luoghi in cui sappiamo c'è una forte affluenza sia di turismo che di sportivi, di pubblico in generale, e ci sono delle esigenze, tra cui lo smaltimento dei rifiuti, e su questo voi state lavorando. Esatto. Nello specifico il progetto di cui parliamo in questo momento è intitolato Eco Innovazione in Altitudine, ed è un progetto trasfrontaliero che coinvolge partenariato trasfrontaliero, appunto, quindi Italia, Francia, Svizzera. Si tratta tra le varie attività di sviluppare dei sistemi innovativi, soprattutto di trattamento dei reflui, quindi banalmente le acque di scarico che provengono dall'attività di gestione del rifugio. Effettivamente non sono chiaramente, come possibile intuire, non sono possibili collegamenti con la fognatura ordinaria, di conseguenza vi sono dei sistemi di smaltimento che molto spesso creano delle grosse difficoltà, proprio perché essendo in quota o comunque essendo il territorio molto particolare non è poi così semplice arrivare a trattare il reflu in modo da non produrre sostanze inquinanti pericolose o comunque difficili da gestire. Perché giustamente c'è sempre l'aspetto di conservazione dell'ambiente, appunto di un ambiente molto delicato, molto bello da proteggere. E poi c'è il problemino che insomma le acque reflue in alta quota cosa fanno? Congelano? Congelano tutte. Sì, tendenzialmente non i problemi legati proprio al trattamento dei reflui sono soprattutto legate alla temperatura, nel senso che sostanzialmente quello che viene utilizzato a livello di rifugio sono delle vasche di decantaggio all'interno delle quali dei processi biologici favoriscono la digestione vera e propria delle sostanze inquinanti. Il problema è che essendo sostanze biologiche, essendo degli enzimi viventi, subiscono la temperatura, quindi al di sotto degli 8 gradi questi sistemi tendono a non funzionare o funzionare male. Sostanzialmente poi bisogna anche considerare che l'attività di rifugio è anche un'attività stagionale, di conseguenza abbiamo dei momenti di grande carico di lavoro del sistema e nei momenti in cui invece il rifugio è chiuso o comunque ha un'affluenza molto più bassa, e di conseguenza ci sono dei picchi verso il basso di funzionamento dell'impianto. Non è difficile immaginare durante la stagione sciistica quanto un rifugio possa essere utilizzato e quanti appunto rifiuti e acque reflue possa in qualche modo produrre. E quindi state pensando in che modo di poter mantenere la temperatura, di mantenere al caldo gli enzimi? Ma nel nostro progetto abbiamo individuato due strutture, una in una località di media montagna intorno ai 2500 metri e una in alta montagna a 3500 metri, dove sperimentare un sistema di trattamento dei reflui che è sostanzialmente costituito da un modulo chiuso autosufficiente dal punto di vista energetico, che sostanzialmente essendo chiuso e ben coibentato riesce a mantenere anche a temperature esterne molto basse la temperatura superiore agli 8 gradi. In più questo sistema è alimentato da sistemi di pompe in ricircolo, in modo che le acque semidigerite vengano rimesse in circuito nel sistema, così che l'azione biologica delle vasche contenute all'interno di questi moduli sia continua e quindi con la temperatura ideale, l'energia che è necessaria e l'ossigeno necessario a far lavorare i batteri, effettivamente si ha una funzionalità, una resa di questi impianti che sono molto molto più efficaci e efficienti rispetto ai sistemi tradizionali. Sì, perché non si può prevedere intanto un sistema di depurazione per cui appunto l'acqua possa tornare a scorrere nel torrente, mi pare di capire, no? Ma tendenzialmente sì. Potrebbe nel essere. Senso che sì, l'obiettivo finale è quello di rispettare dei parametri di legge che comunque sono abbastanza restrittivi, quindi la qualità del liquido in uscita dopo tutto il processo di trattamento è comunque una buona qualità, quindi c'è la possibilità di appunto di liberare in acque di superficie o comunque sul suolo una quantità di acqua che effettivamente ha una buona qualità. Senta Piccardi, essendo io uno che non è mai abitato più oltre il secondo piano, quindi ho ma però come tanti che probabilmente ci ascoltano, no, non hanno una grande frequentazione con la montagna. Ma mi viene da chiedere, ma adesso si fanno questi interventi qua che sono tecnologicamente avanzati, ma in tutti gli anni passati com'è che era la situazione lì in questi come rifugi? Facevano? Cioè, perché la temperatura in alta montagna, questa c'è da tempo, no? Sì. La sì. Temperatura bassa, e cosa si faceva? Ma è sempre stato un grosso problema, soprattutto negli ultimi anni. Tendenzialmente, ed era molto oneroso, diciamo che il gestore di rifugio utilizzava l'elicottero per lo svascamento, quindi esistevano delle grandi vasche di raccolta del refluo che periodicamente, a volte anche più volte durante la stagione, venivano portate giù lì, diciamo le cose come stanno, si scioglieva e si... E si riusciva a sì. Depurare. Sì, tendenzialmente a metà fine stagione venivano svuotate completamente queste vasche, veniva portato a valle il refluo e poi chiaramente questo fatto convergere in impianti di depurazione industriali. Okay, quindi okay. Diciamo che però decisamente così, costoso come, come metodo. Sì, assolutamente molto molto costoso. E l'energia invece per far funzionare, diciamo, il vostro impianto, il vostro serbatoio pilota, da dove viene prodotta? Allora, qui l'energia per far funzionare il sistema, come dicevamo, è tutta energia naturale. Sono tutte energie di origine sostenibile, quindi abbiamo pannelli fotovoltaici e pannelli termici che fanno mantenere la temperatura e fanno funzionare le pompe elettriche contenute al loro interno. Quindi da questo punto di vista, anche per il gestore di rifugio, l'intervento anche proprio materiale è veramente minimo, nel senso che a regime questi impianti richiedono semplicemente la verifica dei parametri e tutt'al più l'inserimento di l'aggiunta di qualche enzima in modo che comunque la funzionalità sia assicurata e continua, ma poi tendenzialmente da questo punto di vista anche l'onere, diciamo a livello di tempo di gestione per il gestore di rifugio effettivamente è ridotto al minimo. Però perché stavo pensando, preparando questa intervista, che il pannello solare anche in montagna ha dei seri problemi di copertura nevosa. Sì, beh, sicuramente vanno molto ben studiati questi sistemi in modo che effettivamente la resa sia garantita, quindi non ci siano problemi appunto di copertura nevosa. C'è anche da dire una cosa, che i pannelli fotovoltaici alle basse temperature, se hanno una buona esposizione, hanno una produttività che è molto alta. Quindi anche ad alta quota, se l'esposizione è buona al sole, effettivamente comunque la resa è garantita. E poi c'è tanta luce in montagna, adesso i pannelli non hanno proprio bisogno del sole, no? Gli basta anche un bel po' di luce. Sì, è vero che diciamo che in alta montagna abbiamo anche il problema legato alla meteorologia, con dei periodi di copertura nuvolosa abbastanza importante, ma lo vediamo comunque anche su altri sistemi. Certo. Di produzione di energia, che il pannello fotovoltaico al momento ha dato ottima resa, tanto che vi sono rifugi sperimentali come ad esempio la Monte Rosa Hutte nella zona di Zermatt, che è completamente autosufficiente con un campo pannelli abbastanza come dire, voluminoso e ampio, però effettivamente completamente autosufficiente da questo punto di vista. Vi ringraziamo, grazie per averci portato in quota insieme a voi. Insomma, adesso chi verrà in montagna in questo periodo estivo, insomma, penserà anche un po' alla vostra attività, alla vostra ricerca. Grazie davvero, ringraziamo la dottoressa Cortese, Fossone e Piccardi. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ora vi parlo di gioielli, ma fatti da stampanti 3D. Sembra una roba sconvolgente, come siamo entrati in uno dei più preziosi e antichi territori artigianali, anche lì con le stampanti 3D. Ebbene, vedrete, vi sorprenderemo, è assolutamente intelligente farlo, conviene, insomma, adesso ci arriviamo. I miei ospiti sono Alba Cappellieri. Buonasera Cappellieri. Buonasera a voi. Presidente del corso di design della moda al Politecnico di Milano. E poi ho anche Andrea Sandi. Buonasera Sandi. Buonasera a tutti voi. Brevemente, tre generazioni di orafi, no? Se non sbaglio, però adesso lei ha un'azienda, con quanti dipendenti? Siamo in 15 dipendenti per quanto riguarda la prototipazione rapida e la stampa 3D. Ok, quindi un'azienda di una dimensione classica delle nostre piccole aziende. Fate un sacco di cose. Quando abbiamo preparato la trasmissione, lei mi ha sorpreso con alcune informazioni e infatti, lo dico ai nostri ascoltatori, state lì che vedrete che cosa strana, in che senso. È molto interessante vedere come a un certo momento l'innovazione sia un processo che fa dei giri molto strani, molto curiosi, andando a prendere cose nel passato, le rinnova e poi le ributta in un presente avanzatissimo. Adesso vi capirete. Comincio con lei, Alba Capellieri. Allora, io dicevo all'inizio, beh, insomma, certo, se c'è, oltretutto in Italia anche, abbiamo un'antichissima tradizione di gioielleria famosa, insomma, quando si dice la facciamo con le stampanti 3D, sembra che andiamo a perdere grande qualità. Invece, io lo so, questa è un'immagine completamente sballata. E invece no, nel senso che questo è un'ulteriore testimonianza della varietà e della versatilità della manifattura italiana, che spazia dal gioiello più tradizionale, quello cioè realizzato con materiali e metalli preziosi, fino invece alle nuove innovazioni tecnologiche, che sono in questo caso proprio quelle della stampa 3D. È infatti sorprendente vedere come nel presente e ancora di più nell'immediato futuro la stampa 3D insieme all'additive manufacturing ci offrirà delle soluzioni a dir poco impensabili anche per il gioiello. Ed è interessante per i nostri spettatori sapere che non facciamo riferimento soltanto al gioiello gadget o al gioiello accessorio, ma con la stampa 3D, come proprio Andrea Sandi sa bene perché ha realizzato dei pezzi assolutamente straordinari, si possono realizzare anche dei gioielli tradizionali realizzati, cioè con materiali e metalli preziosi. Cioè realizzati con l'oro, con l'argento, ma adesso certo, poi arriviamo ai materiali. Forse sarà bene dire, noi abbiamo già parlato di stampanti 3D in onda, però dobbiamo dire che questo marchingegno, questa macchina, stampante 3D, dal punto di vista delle forme, può davvero fare tutto. Cioè possiamo dargli anche come messaggio, come compito, quello di costruire una forma particolarmente complessa, fatta quindi di rilievi diversissimi, e la stampante lo fa. Quindi non deve essere sorprendente, no, Capellieri, che... Non solo, ma anche con la stampa 3D si riescono ad avere delle forme e dei volumi che non sono realizzabili, ecco, con le tecniche ore. Esatto, lei aggiunge questa cosa che volevo chiederle, cioè si riesce addirittura ad ottenere di più. Molto di più, proprio perché grazie a un procedimento volumetrico possiamo avere dei volumi vuoti, quindi con un notevole risparmio in termini di materiali, che se consideriamo l'oro piuttosto che l'argento significa ridurre notevolmente, certo, il costo finale dell'oggetto, i costi di produzione. La stampa 3D è una rivoluzione radicale, non soltanto da un punto di vista estetico, ma anche da un punto di vista dei processi produttivi. Le chiedo anche un'altra cosa, con la stampante 3D, come in tanti altri settori, ma perché no, anche in questo del gioiello, si riesce a introdurre del materiale, alcuni materiali che trasformati in gioielli sono molto belli e che con gli strumenti tradizionali dell'orafo non erano possibili, no? C'è anche questa apertura verso nuove superfici. Certo, perché il materiale tradizionale è la poliammide, per cui con la stampa 3D si possono avere dei gioielli o da rifinirsi direttamente in poliammide, quindi che l'oggetto finale è in poliammide, o la stampa in poliammide può rappresentare poi lo stampo per la fusione nei metalli preziosi e quindi a quel punto si presta ad innumerevoli variazioni in termini di finitura, in termini di materiali, ma anche, e questa è una cosa che mi preme sottolineare, dal punto di vista semantico del contenuto del gioiello, che quindi può decidere se essere prezioso piuttosto che se invece appartenere al mondo dell'accessorio moda. Dal punto di vista della qualità artigianale, quindi dal punto di vista artistico dell'oggetto, beh, il fatto che il gioiello fosse qualcosa di valore, diciamocelo, era qualcosa di interessante sul piano finanziario, però non un fattore di qualità. E quindi con l'allontanamento dal fattore di valore, per esempio utilizzando altri materiali, con la stampante 3D viene ad emergere la qualità di tipo artistico anche. Io preferirei dire emerge un valore di tipo creativo. Sì, creativo. Vale a dire, certo, che il, certo, valore del progetto non può certamente affiancare quello della preziosità dei materiali, ma è certamente un fattore importante per l'innovazione del prodotto. E questo è, a mio avviso, un'ulteriore testimonianza della ricchezza di questo secolo così fluido, dove il valore dei materiali si affianca a quello del progetto e dove l'artigiano, se riesce a rinnovarsi attraverso un aggiornamento tecnologico legato soprattutto alla modellazione digitale, ha davvero l'opportunità di dare un nuovo senso e un nuovo valore al suo lavoro. Andrea Sandi, arrivo da lei. Allora, abbiamo detto 3 generazioni di orofi, poi a un certo momento scoprite la stampante 3D e adesso nella vostra azienda, nella sua azienda, quante ne avete? Cioè, ne avete tante in produzione? Abbiamo molte macchine di produzione, tutte quante molto avveniristiche come tecnologia, facciamo anche molta ricerca, si parlava prima dei materiali che possono essere utilizzati, ma soprattutto mi ricollego a quanto avete detto voi nell'ambito della gioielleria, noi come italiani, come gioiellieri o come artigiani, se riusciamo, come diceva la professoressa Cappellieri prima, a riunire la nostra abilità manuale a quella che è l'utilizzo della tecnologia, riusciamo sicuramente ad emergere in questo mercato che ci ha sempre visti come attori principali in tutto il mondo. La creatività, il passaggio di creatività dagli strumenti dell'orafo alla 3D, voi l'avete vissuto bene, insomma, no, non avete sentito una frattura? Io l'ho vissuto in una maniera entusiastica, mio padre e le persone prima di me l'hanno vissuto in una maniera un po' come di rottura, cui è stato difficile per loro accettare questo tipologia di cambiamento, anche perché all'inizio chiaramente non tutto riesce, ecco, un po' alla volta si riesce a compenetrare, a comprendere, certo, al 100% la tecnologia. Tutti gli aspetti. Ecco, la cosa che mi ha sorpreso di più, e credo che sorprenderà tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso, e che lei mi ha detto ieri, è che, allora, appunto, generazioni di orafi che entrano nella stampante 3D, mettete in piedi un'azienda che funziona con relazioni in Italia e all'estero, però improvvisamente vi state trasformando anche in un'azienda che, a partire da orafi, fa pezzettini di ossa per chirurgia sofisticata o addirittura strumenti per l'aeronautica. Assolutamente sì, questo è un aspetto molto bello e che mi entusiasma di quello che è questo binomio, quello del sapere lavorare con le mani dal punto di vista artigianale e saper utilizzare la tecnologia, perché lo si può porre in tutti gli altri settori merceologici, sì, per cui le protesi customizzate, i veri pezzi di ricambio, lo si fa con la tecnologia 3D. E quindi voi, per esempio, avete fatto, mi diceva, delle ossa di un piede per un intervento chirurgico? Assolutamente sì, è stato il primo trapianto al mondo di 2 ossa di una guida alpina che si era fratturato ed aveva 2 ossa inutilizzabili. L'alternativa a 30 anni era quella di rimanere completamente zoppo, per cui non riuscire neanche a camminare nella maniera corretta, oppure sostenere un'operazione di questo tipo. È stata fatta con i chirurghi più avanzati italiani in ortopedia e dopo 2 anni il ragazzo è ritornato a rifare la salita impegnativissima che aveva fatto quando era caduto e si era traumatizzato. E perché non guardare a quelle ossicine delicate del piede come dei gioielli che una cultura orafa sono in grado di scolpire, certamente, sì, perché no? Quello è la capacità e la volontà nell'apprendere le possibilità della digitalizzazione che i computer oggigiorno ci offrono. Ma voi fate anche i famosi tubi di pitolo, dico per gli ascoltatori, sono quei come tubicini che ci sono tipicamente di fronte sul muso degli aerei che servono a stabilire la velocità. Sì, e a controllare che gli eventuali automatismi del computer e del pilota automatico funzionino correttamente. Ad hoc, correttamente. Certo. Cioè. E quindi fornite anche materiale sofisticato in stampanti 3D per l'avionica. Le stampanti che utilizziamo, certo, utilizzano dei materiali delle superleghe che vengono utilizzati soprattutto in questi aspetti molto molto estremi. Ecco, vedete ascoltatori, come appunto quello che vi dicevo prima accade, cioè a un certo momento una tradizione artigianale cambia nel gestire i propri prodotti, ma entra anche in una dimensione nuova, cioè verso nuovi orizzonti. Alba Cappellieri, Andrea Sandi, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È stata organizzata, proposta in diverse città italiane la scorsa settimana una serie di conferenze dedicate a un tema con un titolo abbastanza divertente: La bufala è servita. Sì, una rassegna su quelle che sono un po' le bufale in campo scientifico, quindi campo medico, OGM, temi ne caldi. Ne abbiamo viste, ecco, un po' di recente, però all'interno di questa rassegna... Sì, temi che diciamo trattiamo anche noi, a me questa abbastanza spesso. Di cose un po' bruttine. ma poi all'interno c'è stato anche un momento di riflessione su come effettivamente il nostro cervello può essere, come dire, propenso a cadere in inganno. Esatto. Allora, in generale, al di là delle notizie bufalone. Ah beh, sì, certamente. Intanto forse è doveroso ricordare che la rassegna era organizzata da Italia Unita per la Scienza, quindi è un'associazione di giovani che divulgatori. Noi seguiamo, certo. Sì. Abbiamo pensato di prendere uno di questi temi, in questo caso appunto parliamo di neuroscienze, perché ci sembrava interessante che anche gli ascoltatori potessero in qualche modo riflettere su questo tema. Dunque, lo facciamo con colui che rappresenta Verona la scorsa settimana per la conferenza, che aveva come titolo Credere l'impossibile. Intanto diamo il benvenuto a Giuseppe Di Pellegrino. Buonasera. Grazie. Benvenuto. Lei è del Centro di Studi e Ricerche in Neuroscienze Cognitive dell'Università di Bologna ed ecco, sì, che lì vi interrogavate un po' sul fatto come sia possibile ingannare il nostro cervello, che è considerata così una macchina perfetta. Invece tante volte appunto riusciamo a ingannarlo, a cadere in trampoloni, micidiali. Sì, noi abbiamo, in particolare ci sono diverse situazioni di questo genere in cui diciamo il cervello cade, o la mente diciamo delle persone cadono in errore. Non dovrebbero, secondo alcune teorie, secondo i modelli diciamo economici classici, che prevedono che il soggetto sia completamente dotato di razionalità, sia completamente razionale. Invece in realtà le persone, a seconda di come le per esempio scelte vengono proposte, secondo di come vengono descritte, scelgono in modo differente. Questo, sì, è una sorta di irrazionalità, di non coerenza nel comportamento, che fa pensare che le persone siano non completamente razionali. Di Pellegrino, però forse una specifica importante: sappiamo tutti in realtà che il nostro cervello molte volte, vuol dire, non funziona, non è che ci sentiamo perfetti. Il problema è, mi pare di capire, che voi sottolineate come in momenti, in tutte queste situazioni nelle quali invece a noi sembra assolutamente naturale che si possa risolvere con facilità delle cose, con invece razionalità, è lì che cadiamo in trappola, cioè, no? Esatto, questo, immaginiamo delle situazioni dove, per esempio, situazioni di vita o morte, no? Dove uno può immaginare che in quelle situazioni, non anche magari piene di emozione, ma in cui la ragione deve avere un ruolo. Immaginiamo in cui, per esempio, ti si pone il problema di decidere se andare incontro ad un intervento chirurgico importante, e naturalmente il medico ti sta descrivendo quali sono le prospettive. In genere il medico ha la responsabilità di informarti di a che cosa va incontro, e te lo può dire in due modi. Per esempio ti può dire che l'intervento ha una mortalità nei 5 anni successivi all'intervento del 2%. Ok? A questo punto la maggioranza, è stato visto, ho fatto esattamente questo problema, la maggioranza delle persone dice no, grazie, non preferisco non fare nessun intervento, anche se l'intervento si ritiene estremamente importante, poi alla fine funziona e un 2% può essere un rischio del tutto accettabile. Ma non è questo il punto. Se un altro medico, un altro modo di porre il problema, invece di raccontartelo con il 2% di probabilità di morte nei 5 anni successivi, te lo descrive con 98% di sopravvivenza e ottima salute nei 5 anni successivi, cioè esattamente la stessa cosa di prima, le persone accettano, cioè quindi si comportano in modo diverso a seconda che viene sottolineata la sopravvivenza o viene sottolineata la mortalità. E questo, appunto, questo fenomeno viene chiamato fenomeno di framing, cioè a seconda di come lo incornicio, il frame, la cornice della mia descrizione, le persone cambiano decisione. La stessa cosa succede anche nel supermercato. Se io vedo un prodotto e c'è scritto 20% di grasso, non lo compro. Se vedo un prodotto e c'è scritto 80% magro, lo compro. È vero, è vero. E la stessa cosa anche nei prezzi. Se io vedo 1,90 centesimi, esatto, magari lo compro. Se è 2 euro, allora no. Però ci sono degli elementi proprio obiettivi per cui appunto veniamo ingannati. Ad esempio questo, vabbè, adesso noi abbiamo ragionato su questo, però se andiamo al supermercato ci caschiamo di nuovo, quindi cioè, sono elementi che comunque li subiamo. Funzionano perfettamente. Perché succede? Allora, innanzitutto perché probabilmente questo modo di rispondere a queste, allora hanno fatto diversi studi anche di tipo neuroscientifico e hanno trovato che diciamo si attivano delle regioni che sono collegate alle emozioni quando il soggetto, per esempio quando il medico descrive la situazione in termini di morte, mentre la stessa cosa non succede quando la descrivo in termini di sopravvivenza. Si mette in moto un'altra parte del cervello. Esatto, quindi le emozioni sono lì il problema, le emozioni entrano in gioco nella maggioranza delle volte, nella vita di tutti i giorni, queste emozioni hanno un ruolo fondamentale perché ci aiutano a decidere in modo saggio, cioè quindi non è che voglio dire che le emozioni, anzi servono, hanno un forte valore adattivo perché quello che viene dalle emozioni è probabilmente il frutto di un'evoluzione molto milionaria di milioni di anni e che quindi serve a guidarci correttamente, in modo vantaggioso, come dicono alcuni scienziati. Di Pellegrino, ci viene da chiederle se c'è una differenza appunto col passare del tempo, per esempio tra persone abbastanza giovani e persone un po' anziane, nel rapportarsi appunto all'1,99 come costo inferiore ai 2 euro. Allora sì, hanno fatto degli studi, hanno visto che i soggetti più giovani soffrono meno, sono meno soggetti a questi errori cognitivi delle persone più anziane. Come spiegare queste differenze? Non è soltanto che il cervello dell'anziano, delle persone più avanti con gli anni, ha meno risorse disponibili, non è solo una questione di minore risorse, ma piuttosto probabile di esperienza, cioè col passare degli anni, con l'esperienza, il soggetto si rende conto che il modo che normalmente ha di decidere funziona e tende ad applicare sempre la stessa metodo di decisione. Questo metodo però, come ho già detto, è soggetto a questi errori e quindi vorrà dire che l'errore sarà più comune nei soggetti più anziani che non nei soggetti giovani. Ad esempio, vi faccio un altro esempio, hanno fatto uno studio molto recente, ha suscitato anche notevole scalpore nei media in America. Hanno fatto esattamente queste decisioni di cui vi parlavo all'inizio sulla vita e la morte dopo interventi chirurgici o anche situazioni simili a persone giovani e a agenti dell'FBI, dell'intelligence americana, e pensando che i soggetti dell'intelligence, quelli dell'FBI, fossero più preparati, più razionali, più preparati e più logici, visto che sono sempre pronti a dover decidere in condizioni di estrema difficoltà e di rischio. E invece hanno visto che anche in questo caso persone più esperte nelle decisioni e che più comunemente affrontano dei problemi decisionali sono anche maggiormente soggetti a questi errori cognitivi, proprio perché più tendi ad utilizzare queste modalità di decisione che normalmente, ho detto, funziona, la vita di tutti i giorni funzionano, ma che hanno poi delle trappole, ogni tanto diciamo ci sono dei tranelli e quindi ci cadi dentro, mentre i giovani che sono meno esperti probabilmente tendono a leggere più alla lettera esattamente l'1,99 e 2 euro sono due cose che sono probabilmente molto molto vicine, si fanno la sottrazione, mentre nei soggetti più anziani con l'età sono più, guardano più complessivamente il problema e dicono bah, 2 euro è sicuramente di più. Per esempio l'esperimento riguardava un esempio, immaginate che in America si sta preparando ad affrontare una malattia virale, no? In cui dovrebbero morire 600 persone, no? E l'alternativa, ci sono due possibili trattamenti terapeutici, uno in cui si salvano 200 persone e un altro che ha lo stesso numero ma viene espresso in probabilità, no? Per esempio c'è un 33% di probabilità che se ne salvino 600, ma c'è anche un 66% che non si salvi nessuno, quindi diciamo i soggetti devono scegliere in queste due condizioni. E gli 007, come i soggetti normali, preferiscono scegliere che l'opzione cosiddetta sicura, cioè meglio garantire che 200 persone si salvano piuttosto che rischiare che un 66% di probabilità che muoiano tutti, e questo ce l'abbiamo tutti, cioè la cosiddetta avversione a situazioni rischiose, non ci piace il rischio, preferiamo delle cose sicure. Tuttavia qui non finisce la storia, se io ti racconto lo stesso problema ma cambio la terminologia, invece di dire il programma consentirà a 200 persone di salvarsi, ma a 400 persone di morire, 400 persone moriranno se utilizzi questo, è lo stesso programma di prima, quello stesso programma che prima era stato scelto. Detto così fa più effetto. Mentre gli vengo descritta come alternativa che un 30% si salverà e il 60% morirà, a quel punto preferiscono rischiare e pur di evitare la morte sicura di 400 persone rischiano. Grazie Di Pellegrino, buon lavoro e buona ricerca. Grazie a voi, buonasera. Arrivederci Pellegrino. Siamo in chiusura di puntata. Ricordiamo in pochi secondi come gli ascoltatori possono entrare in contatto con noi? Con il blog, direi, che abbiamo appena aperto. Andate alla pagina della radio www.radio24.it e lì, se cercate Möbius, dalla pagina di Möbius vedete subito come arrivare sul nostro blog. Oppure dalla pagina blog del sito. E poi ricordiamo tutti i social, ci trovate in maniera davvero semplice soltanto se digitate Möbius. Ciao a tutti, buona settimana. Buona settimana a tutti.